e tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Siete sempre in diretta radiofonica, sabato 6 ottobre del 2018, questo è sempre il Convento di Lunato e questa è sempre Risto Radio Convento e questa è sempre Benedetta che è tornata a trovarci ai nostri microfoni. L'abbiamo avuta a inizio di serata, ma adesso finalmente le regaliamo il suo spazio e il suo momento personale qui con noi. Bentornata Benedetta. Grazie. Oh, non è sola. Non è sola, ovviamente, è arrivata anche con le amiche. Tra l'altro, come si chiama la tua l'amica di fianco a te? Marta, ecco. Perdonami, Marta, non hai schiacciato il pulsante. Ah, scusa, non vedevo, perché stavo registrando, non vedevo il contachilometri lì. E no, tutto a posto. E tra l'altro salutiamo la pecorella smarrita che è rimasta. Che è la cognata. La cognata che è rimasta fuori per ovvi motivi, essendo la cognata, e diciamo che. È come far brutta figura. Esatto, non può fare bene. È come la zavorra sulla mongolfiera, diciamo che guarda, non ci stiamo, ma non ci sta per una. Chi sta fuori tu? Perché esatto, la cognata purtroppo ha quel ruolo lì. Allora, Benedetta, ricordaci da dove vieni? Da Verona. E soprattutto ricordaci perché sei qui con noi, cosa stai festeggiando qui da noi stasera? Allora, sto festeggiando l'addio al nubilato. Mi sposo sabato prossimo. Oh, sabato prossimo, ci siamo. Lei sta già piangendo, sì, la tua amica sta già piangendo. La mia amica bresciana. Sta già piangendo, ma non perché è emozionata, perché si era dimenticata che il matrimonio era la prossima settimana e non ha ancora comprato il vestito. Esatto. E quindi era disperata perché sa che questa settimana dovrà fare spese folli, esatto, per il tuo matrimonio, giusto? Esatto. Vedi, io ho già capito tutto, è inutile, non c'è niente da fare. Allora dai, chi è il fortunato? Si chiama Emanuele. Si chiama Emanuele, vi conoscete da tanto? No, da 6 anni, dai. Da 6 anni? Da 6 anni me l'ha fatto conoscere la mia amica Lara. Dov'è la colpevole? Chi era Lara? Lara dove sei? Questa qua sotto. Oh, e come mai? Microfono, Lara, vai, fai un passo di là. Beh, anche quello, non devo provare. E gliel'hai fatto conoscere? In che occasione? Non si ricorda. C'eri? All'ultimo dell'anno. Capodanno? Capodanno. Ok, dove? In taverna. Vabbè, ma l'ha conosciuto lì in taverna. In taverna fidanzato. Sì, esatto. Era fidanzato. Sì, beh, era fidanzato. E come ci piace chiedere in questi momenti, che cosa ci hai visto? Cioè, perché li hai fatti conoscere? No, hanno voluto loro il corrispettivo numero. Ah, e anche tu che c'entravi, quindi? Io sono amica di tutti e due. E li avevi. Ah, ok. Pensavo avessi agevolato tu l'incontro. No, niente, hanno fatto tutto. Hanno fatto tutto da soli. Bravi. Allora dici un po' cosa ti ha colpito, cosa ti ha interessato di lui, Benedetta. Perché è simpatico. E sì. E è un po' Bambi. Cosa dire un po' Bambi? È come. No, perché ci chiamiamo Bresciano Bambito. Ah, ok. No, pensavo Bambi il cerbiato, no? Ah, no, per quello. No, non è che tutti pensano al cerbiato? Sì, e cosa significa Bambi in bresciano? No, perché siamo di Verona, allora vuol dire imbambito. Ah, rimbambito, non è un complimento però. No, però siccome ci prendiamo in giro. Ah, ok, diciamo allora, che è un tenero complimento, diciamo così. E tra l'altro la nostra Benedetta, come dire, smentisce. Benedetta la signora, ovviamente, sì. Diciamo, smentisce un po' la nomea che si dice dell'aggettivo simpatico. Sai che simpatico di un ragazzo si dice quando non ha qualità. Cioè quando non sai che cosa dirgli, non è bello, non è intelligente, non è interessante. Vabbè, è simpatico, perché è la prima cosa che... E invece no. Questo vedi che lo conferma. Vedi che lo conferma, quindi questo... No, no, Enrico, mi sposo uno simpatico. Questo smentisce il fatto che simpatico non sia un complimento, una qualità. Può essere interessante. Esatto. Questo è un messaggio di sostegno a tutti i ragazzi, a tutti gli uomini che oltre ai 2 di picche si sono sentiti dire centinaia di sei simpatico. E si sono sempre stati disperati fino a stasera e non più. Mentre la tua amica si sta facendo odiare da mezzo locale, sì, facendo ditti medi a tutti. Ah, loro sì, istigano, sì, sì. E lei risponde perché è protetta dal vetro, e quindi giustamente si tutela. A proposito di amiche, Benedetta, ti va di fare gli onori di casa e raccontarci un po' chi ti accompagna questa sera e non solo? Allora, mi accompagna oltre alla cognata che non rivedrete più, che non c'è, la Marta, la Giorgia, la Silvia, la Lara e la Giada. E la Giada, molto bene. E chi sono loro per te? Tutte amiche, colleghe, parenti? Siamo tutte amiche, sì, siamo tutte amiche. Bene, beh, di vecchia data? E alcune sì, alcune no. Bene, allora un misto, una bella Macedonia, una bella Macedonia. Ok, ok. Allora, vuoi dire qualcosa? Voglio approfittare del microfono per mandare qualche messaggio? Lo posso dire, Bambi fa il bravo. Ok, chiarissimo, chiarissimo. Ma perché sta festeggiando anche lui? Eh sì, abbiamo fatto lo stesso. Contemporanea. E sai dov'è lui? Sì, è a Padova. E cosa c'è a Padova? A Padova c'è, com'è che si chiama? Il Badia. Ma è un, cos'è, un locale? Cos'è? È un locale, penso sia come questo. Ok, più o meno. Ok, ok. Meglio di no. Esatto, insomma, meglio. Mi ha detto che è un locale. Non vogliamo sapere, non vogliamo sapere nulla. Ci sono serate in cui è meglio non sapere. Assolutamente sì. Sì, sì, c'è anche una Sailor Moon. Non, può essere che si aggiri nel nostri locali. Ok, ragazzi, allora intanto grazie mille per essere state con noi. Vi auguriamo una buona serata e un buon fine festa. Ciao.